condition. Cielo e non sai neanche perché. Ce lo sai. Però ce lo sai. Però ce lo sai. Però ce lo sai. Sai, però, però. ascolta, ascolta ciò che vuoi, che vuoi. Yeah. comunicazione intensa. Ascoltate la musica, ma non alzate troppissimo il volume. Non dimentichiamo che, da quando ha avuto inizio il mondo, milioni di bambini si sono addormentati al ritmo della ninna nanna, cantata dalla mamma. può aiutare. Proprietà. Proprietà. Può aiutare. Musical. rumore. Se la vibrazione è regolare, il suono che ne risulta è musicale e costituisce una nota di altezza determinata. Se irregolare, musicale. Irregolare, risultato è rumore. Vibrazione irregolare è rumore. Vibrazione irregolare. Musicore. Believers out, We'll be right back. into the vibe. What that vibe, vibe, vibe, what that vibe, the vibe, what that vibe, vibe, vibe, what that vibe, what that vibe, into the vibe. To the bar, bar, bar. La casa que mi casa, la casa que mis casa, casa, pato pa casa. Attenzione. Desidero raccontare musicalmente. Io mi sono capito.